140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Believe Digital, Milano. Erano un gruppo, ora sono un duo, ma dopo 18 anni hanno ancora molta voglia di musica. I Gemelli Diversi tornano con l'album Uppercut. Perché è un po' un pugno che abbiamo ricevuto noi dalla vita, quello scossone che abbiamo attraversato con le nostre vicissitudini del gruppo. E nonostante ciò, ci ritroviamo qui a parlare del disco, perché ci ha dato la forza per ripartire, perché non è importante quante volte cadi, quante volte picchi il muso per terra, ma è importante quante volte hai la forza poi per rialzarti, per affrontare tutta la tua vita di tutti i giorni. Naturalmente la title track rinchiude un po' il concetto basilare di tutto il disco, cioè di non smettere mai di sognare, di nonostante la vita ti possa sottoporre a delle problematiche o delle vicissitudini che vivono tutti quotidianamente, io, te, lui, la musica, l'amore, la vita, sta a te trovare la forza per rialzarti, per andare avanti. A me quelli che hanno il successo sempre costante, felice per tutta la vita, piacciono meno. Mi piacciono più quelli che hanno dei grossi successi, poi dei momenti di riflessione, poi dei ritorni, perché hanno più cose da dire, hanno vissuto più cose. Voi mi guardate come per dire, ma noi avremmo preferito essere sempre al numero uno, giustamente. No. Però è così, insomma, ci sono carriere che hanno delle grosse esplosioni di esposizioni, poi qualche calcio, qualche pugno. Certo. Per voi adesso questo periodo com'è? Come vi sentite adesso con Uppercut tra le mani? Allora, la vita è fatta di alti e bassi, e sembra una stupidità, una roba scontata, ma in realtà è vero, la vita è una curva di Gauss, si sale, poi si scende, è bello anche quello, perché sennò sarebbe una noia, sempre lì al top, quindi è bello anche ricevere magari qualche pugno che poi ti permette di capire che sei forte abbastanza per ricominciare, per risalire la china. Noi siamo cresciuti come artisti e soprattutto come uomini, adesso c'è qualche pelo grigio nei capelli, nella barba, ci sentiamo molto più consapevoli, ci sentiamo molto più consapevoli di quello che siamo e di quello che abbiamo fatto. A quest'età magari abbiamo trovato le amicizie vere, che prima magari non c'erano ed erano solo squali che ti stavano intorno perché avevi successo. Abbiamo trovato un equilibrio da uomini, e quindi questo ci ha permesso di fare un album positivo, in una maniera molto rilassata e molto positiva. E fondamentalmente non sei più tornata, fai finta di niente, lasci tutto come rotola la vita in una strada in salita. Due bombe atomiche disinnescate, due cascate prosciugate come la saliva. Amore che stai lì seduto sul davanzale, trova il coraggio perso, adesso prova a saltare. Non ti ricordi più come si fa a volare, ma ci pensa il cielo, chiama davvero, si può salvare. La fiamma è viva fino a quando c'è ossigeno, non è il vento che fa paura. La fiamma brucia anche sotto la pioggia, amore finché dura. Siamo ritagliati nel dolore, un posto per vedere dove va a finire ogni stella abbandonata per errore. Sono come cubetti di ghiaccio questi ricordi, più fa freddo e più diventano forti, ma se li porta a spasso il primo raggio di sole svaniscono, non resta niente. Rapper da 18 anni, adesso rapper un po' chiunque, ma voi c'eravate prima e le avete viste tutte, e adesso come vi sembra la scena, ma anche in generale il mondo della musica, che effetto fa a voi? Guarda, sinceramente non ci siamo mai sentiti facenti parte della scena rap italiana. Abbiamo sempre cercato di proporre la nostra musica, composta da strofe rap e un ritornello cantato. All'epoca ci reputavano dei commerciali. Ah, certo. Assolutamente, erano i Gemelli Diversi, sono venduti, sono commerciali, fanno musica solo per le ragazzine, eccetera, eccetera. Mi sembra che al giorno d'oggi ci stia ritornando quel credito che negli anni anche gli addetti ai lavori non ci davano, perché comunque si limitavano all'apparenza, no? Ci vedevano come quattro ragazzi delle periferie un po' tamarri che si limitavano a cantare le canzoni per le ragazzine. Però ci fa molto piacere vedere che adesso tanti artisti di successo sono riusciti a far successo attraverso lo stile delle canzoni dei Gemelli Diversi. Forse adesso non è una non la prendiamo come una rivincita, perché vediamo, ti ripeto, tutto molto umilmente, tranquillamente, però capiamo che magari 18 anni fa noi avevamo ragione. Forse quel connubio di rap e melodia è una cosa che ha fatto bene sia al rap che alla musica pop e funziona ancora oggi, quindi avevamo ragione, siamo stati sdoganati e ci fa molto molto piacere. Che rapporto avete con i vostri grandissimi successi? Perché ancora passano in radio un pezzo come Mary aveva una tematica che è diventata drammaticamente attuale con gli anni. Che rapporto avete? Cioè, li amate, li non ne potete più? Che rapporto avete? Sono brani che non possiamo esimerci dal fare, dal live, ma non è che lo facciamo perché è uno sforzo e perché la gente ce li richiede, perché ci piace farli, perché sono ancora attuali. Una canzone come Un attimo ancora del 98 è ancora attuale, come se fosse stata fatta oggi. Brani che trattano temi particolari come Mary, ancora oggi vediamo che è passata dalle radio, è passata dalle network, e quindi abbiamo un rapporto bellissimo, anche perché grazie a loro che vediamo le nuove generazioni che cantano i nostri pezzi, che vediamo veramente ragazzine di 14-15 anni che cantano Un attimo ancora, che cantano Mary, che cantano Fotoricordo. Quindi noi fortunatamente abbiamo 3-4 pezzi che sono i classici evergreen, come quando ero piccolo e sentivo i pezzi degli anni 60-70. Sono certo che tra 20 anni ascolteremo ancora Un attimo ancora, ascolteremo Mary, ascolteremo Fotoricordo. Quindi aver messo queste pietre miliari ci riempie d'orgoglio. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i Gemelli Diversi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.